Già dal marzo del 2016 io denunciavo alcuni gruppi a ovest di Tripoli, quelli che sono finiti recentemente nel ciclone dei media mainstream italiani e non, che appunto penso al clan dei Dabashi a Sabrata, fino al coinvolgimento nel traffico dei migranti dell'unità della Guardia Costiera di Zawiya, che sarebbe appunto una città a soli 50 km sempre a ovest di Tripoli, della capitale. Questi due gruppi sono i gruppi di cui oggi tanto si parla per via della loro partecipazione nel piano Minniti, il Minniti Compact. Questi gruppi sono senza tema di smentita legati al traffico di migranti e va da sé che la legittimità della politica del governo italiano sia messa in discussione. Ad oggi le mie denunce, ovviamente di stampo in matrice giornalistica, non hanno mai ricevuto alcuna smentita, anzi giorno dopo giorno conferme. Quindi credo che sia questo il quadro o la cornice entro cui vado a raccontarvi poi che cos'è oggi la Libia. Per quanto il ministro Minniti abbia dichiarato che l'Italia ha investito sulla legalità e non sull'illegalità, io credo che si tratti di una sorta di gioco delle tre carte. Non ho difficoltà ad immaginare che non si tratti tecnicamente e giuridicamente di tangenti quelle che il governo italiano ha pagato ai trafficanti, se non comunque di linee di fondi e finanziamenti attraverso canali ufficiali. Il governo italiano ha pagato le istituzioni libiche e nazionali, quindi ministeri di base a Tripoli e enti locali, attraverso appunto questa politica di engagement con i municipi principali della Libia. Il problema di fondo è la legittimità delle stesse istituzioni libiche. Come sappiamo, la Libia oggi è ancora un paese sconvolto dalla guerra, ha un'economia, la cosiddetta economia del caos, quindi non ci sono istituzioni legittime o comunque slegate dal controllo delle milizie. La Libia è un paese governato dalle milizie. Le istituzioni di Tripoli, quelle nazionali, sono controllate dalle milizie quanto i municipi, nel senso che anzi i municipi in qualche modo sono ancora più soggetti in quanto enti territoriali ai potentati locali. Purtroppo al momento, quello che io dico da anni, al momento la Libia non è un partner per la risoluzione di un problema europeo, soprattutto di natura elettorale, come quello della migrazione irregolare. Non si può chiedere ad un paese come la Libia, che ha problemi interni di sicurezza interna, la vera chiave di lettura per la risoluzione di questo problema è una politica più aperta del rilascio di visti presso le varie ambasciate. Dobbiamo ricordarci che la politica migratoria europea appunto rappresenta un sistema criminogeno e il diniego dei visti presso le ambasciate in giro per il mondo a creare di fatto la migrazione irregolare. Ci dobbiamo ricordare che la migrazione irregolare è l'alternativa alla migrazione regolare. Il viaggio della speranza compiuto attraverso il deserto e via Mediterraneo viene a costare 10 volte tanto quanto che sarebbe un viaggio fatto attraverso un documento regolare e comprando un biglietto aereo. E non dobbiamo berci la favola europea secondo cui è il traffico dei migranti a innescare l'incremento del flusso. Il traffico dei migranti è una risposta, è l'offerta ad una domanda che è sul mercato. Quando Minniti e company ci raccontano la favola che non è possibile trovare un interlocutore in Libia che sia lontano dalle milizie, dalle dinamiche delle milizie, ed è in parte vero. Il problema è che in questo momento non va cercato un interlocutore in Libia su questo problema. La criminalizzazione delle ONG fa parte comunque di questa campagna di costruzione di un mostro, no? Quella dei trafficanti. In realtà l'Europa dovrebbe mandare di suo delle operazioni di search and rescue, come la prima operazione italiana Mare Nostrum, e quindi salvare le vite in mare, senza neanche chiedersi chi sono i trafficanti, anche perché i nomi dei trafficanti ce li abbiamo e oggi sono quelli che bloccano il traffico. L'Europa, l'Italia in Libia sta facendo non peace building, ma mafia capacity building. Tutto quello che è al di dentro di questo di questa linea di cooperazione, è chiaro che fa parte di un processo che punta solo a togliere le castagne dal fuoco all'Italia e all'Europa per le prossime elezioni. Stanno fomentando un processo di destabilizzazione che, lo stiamo vedendo già ora, sta portando la Libia non solo ad essere paese di transito, ma paese anche di origine della migrazione irregolare.